Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Forse è la giornata decisiva, ma non lo diciamo ad alta voce, che forse non lo è. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri approda la vicenda autostrade dopo una giornata convulsa che si è aperta con le parole di Conte, con le quali dava per certa la revoca della concessione, e si è chiusa con un tonfo in borsa di Atlantia, la società che controlla autostrade appunto. Mentre tutto questo avveniva, il Presidente del Consiglio era in visita a Berlino. L'incontro con Angela Merkel si è concluso con parole importanti dalla cancelliera, la quale si complimenta per la straordinaria disciplina dell'Italia, ma con la quale le istanze sul pacchetto di aiuti europeo continuano ad essere marcate. Disciplina, già. Non chiarissima quella che dovranno seguire i lombardi dal 15 luglio, quando cadrà l'obbligo della mascherina all'aperto, ma andrà messa se manca la distanza di sicurezza, un togli e metti continuo. Del resto, che il virus non sia passato è nei fatti e nelle cronache internazionali. La California ha chiuso le attività non essenziali, la Florida è costretta a fare marcia indietro dopo l'esplosione di casi e vittime, passate da 300 a 500 in pochi giorni. In Brasile scatta l'obbligo di mascherina in tutto lo stato di Rio. L'OMS, per quanto inaffidabile ormai tendiamo a considerarla, dice che non si tornerà alla normalità a breve. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Eccoci, le 6:32 minuti e 30 secondi, è martedì 14 luglio. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Con Carmelo Lauricella in regia, Danilo Di Trani in assistenza, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli in redazione, Margherita Ina, Francesco Ciaraffo, i nostri autori. E voi 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, anche gli WhatsApp scritti naturalmente, gli SMS, quello che volete. Giusto per chiarire a chi già ce lo dice, non si sta facendo terrorismo sanitario, perché è sempre l'accusa. Quando dici "oh, non è finita", ti dicono "stai facendo terrorismo sanitario". No, no. Semplicemente stiamoci attenti, eh? Abbiamo qualche decina di migliaia di morti contati in Italia, solamente in Italia, quindi stiamoci attenti. Detto ciò, l'attenzione si concentra su autostrade, appunto. Nelle scorse ore ne abbiamo parlato anche in rassegna stampa con Paolo Mieli, lo avete sentito ieri, avevamo il governo che diceva "basta, martedì si decide". Ma lo sentiamo Conte ieri? Sentiamolo, va. Domani ci sarà questo Consiglio dei Ministri, discuteremo sicuramente, ci sarà un'informativa su questo tema. Avete già capito come va a finire. È una decisione che deve coinvolgere tutto il governo, deve essere messo nella condizione di conoscere. Sarà un'informativa, il governo deve essere messo nella condizione di decidere. Non mi nascondo, eccetera, adesso... non voglio tornarci sopra, diciamo che tutti i ministri domani saranno in condizione di conoscere i dettagli di questo dossier e quindi potremo, sicuramente c'è necessità di adottare una decisione, perché ormai questa vicenda si trascina da troppo tempo e l'incertezza politica è qua, non è qua, giova. È qua. Avete sentito, ha detto "decidiamo"? No, non lo ha detto, e quindi mi sa che anche oggi ce la scordiamo la decisione sull'autostrada. No, poi magari arriva, c'è necessità di adottare una decisione. Molto dura l'opposizione, naturalmente, Giorgia Meloni. Conte ha in mano il dossier di Aspi da 2 anni e invece uno oggi legge un'intervista che sembra di un premier nuovo, perché non si è capito perché in questi 2 anni il governo e segnatamente Conte non abbiano fatto di fatto sostanzialmente nulla per revocare la concessione ad Aspi e per mettere a gara, come Fratelli d'Italia crede che vada fatto, la concessione secondo regole che siano vagamente decenti. Opposizione che protesta anche proprio per l'intervista realizzata ieri da Conte, rilasciata al Fatto Quotidiano, nel quale parlava esplicitamente di revoca. Perché? Perché ieri c'è stata una discreta botta in borsa per Atlantia, la società che controlla Autostrade, fatto che coinvolge naturalmente anche piccoli risparmiatori, quelli che hanno ancora soldi su Atlantia, e anche investitori internazionali, il fondo cinese che ha il 5%, Allianz che insieme a altri ne ha il 7%, e infatti forse ieri con Angela Merkel, anche se fonti di Palazzo Chigi smentiscono, non è escluso, visto il coinvolgimento di Allianz, che Merkel e Conte ne abbiano parlato. Poi appunto lo esclude Palazzo Chigi, Ieri si diceva appunto l'incontro con Angela Merkel, che si conclude con posizioni che restano non vicinissime. Conte chiede una risposta tempestiva e così sulla discrezionalità nell'utilizzo dei fondi. Ci sono alcune criticità, non lo nascondo, che affronteremo a partire da venerdì. L'Italia è per criteri di spesa chiari, trasparenti, in un quadro europeo di solidarietà comune non stiamo chiedendo fondi per poterli poi utilizzare in modo arbitrario. Sicuramente discrezionale sì, non arbitrario, sono due concetti diversi. E va bene. Nel momento nel quale si ragionava sull'Europa economica, c'era un atto importante che avveniva, l'incontro tra quella scena che rimarrà impressa un po' nella memoria di tutti, la foto di Sergio Mattarella, del presidente della Slovenia Pahor, in un atto di riconciliazione di fronte alla foiba di Basovizza. E quindi da una parte questa Europa economica che discute, dall'altra elementi di Europa politica e di riconciliazione europea. Caro Roberto Arditti, direttore di formiche.net, come stai Roberto? Buongiorno. Bene, buongiorno, buongiorno. Eccoci qua. Guarda, partirei con te proprio da Autostrade. Adesso ti faccio lanciare in una previsione. Secondo te decidono oggi oppure no? O è troppo difficile dirlo? Puoi anche ti lascio la scappatoia. Io credo che non ci sarà una decisione formale oggi, ma credo che non tarderà molto, perché i tempi sono molto più che maturi, e poi perché il Presidente del Consiglio, con l'intervista che ha fatto al Fatto Quotidiano di ieri, si è spinto talmente in là nel dire che la decisione è prossima, che diciamo non può rimangiarsi questa promessa, e di conseguenza credo che non siamo lontani. Io spero che le prossime ore portino saggezza, perché uno degli elementi poco considerati, ma che invece io vorrei segnalare questa mattina di tutta questa storia, è che noi dell'Italia di questo secondo semestre del 2020, un secondo semestre difficile economicamente, di tutto abbiamo bisogno tranne che della paralisi, diciamo così, nei lavori di manutenzione, di miglioramento della rete autostradale, che aggiungerebbero a un periodo già difficile sotto il profilo economico un ulteriore rallentamento, che poi vuol dire poco lavoro e così via. Quindi stiamo solo attenti a mettere in campo soluzioni di questa storia, che devono essere trovate, anche perché, Simone, parliamoci chiaro, sì, il Ponte Morandi è una vicenda del crollo che grida vendetta. È sì, evidente che da quel disastro di 2 anni fa non possiamo uscire dicendo andava tutto bene, perché tutto bene no. Quindi qualche provvedimento forte è assolutamente necessario. Però evitiamo, secondo me, di aggiungere a una crisi di questo periodo un altro problema di sistema, perché perché ci faremmo ulteriormente ma guarda Roberto, a testimonianza di quel che dicevi tu, oggi c'è un pezzo sul Sole 24 Ore, poi andrò nel dettaglio in rassegna stampa, magari lo firmano Maurizio Caprino e Marco Morino, che ci racconta che il caos in Liguria ha generato danni da 1 miliardo e sono stati bloccati 30.000 camion al giorno. Non so se qualcuno ha idea di che cosa vuol dire questo in termini di capacità logistica dell'Italia, di capacità di arrivare nel porto di Genova, di far partire le merci. Insomma, un dei problemi ulteriori sulla manutenzione autostradale possono generare anche situazioni di questo genere. Ti vorrei coinvolgere, Roberto, anche sull'incontro di ieri tra Conte e Angela Merkel. Come si diceva, è prevedibile che, non lo dicono ufficialmente, però di autostrada ad autostrada abbiano fatto un accenno, come è ovvio che sia, diciamo, Allianz ha un 7% di Atlantia insieme ad altri e con un veicolo diverso, però è dentro quell'azionariato e soprattutto è un tema che ha a che fare con la nostra capacità di attrarre investimenti. E però il tema centrale è stato il recovery fund, e qua un tema di distanze ancora piuttosto marcate tra il nostro paese e la visione tedesca c'è. Devo dire che le dichiarazioni del primo ministro, del cancelliere Merkel, sono tra quelle per molti versi più favorevoli e più simili alla posizione italiana, e quindi vanno registrate secondo me con favore. Io dico anche qui, abbiamo un vertice a giorni che dovrebbe riuscire a decidere. Non sono convinto proprio al 100% che accadrà. Però diciamo che mentre il mondo è ancora in grandi difficoltà su questa vicenda, lo vediamo in Sud America in particolare, ma vale anche per gli Stati Uniti e così via, ricordiamoci che nell'est del mondo, paesi come Corea, Giappone e ovviamente la Cina stessa, sembrano un po' usciti da questa vicenda, o almeno insomma. Perché lo dico? Perché la grande sfida della competitività internazionale e di come il mondo uscirà da questo difficilissimo anno in corso, sono molto legati ai tempi con i quali si reagisce, e le posizioni competitive del mondo del futuro non saranno le stesse del mondo di prima. Cioè non è che tutti si ritroveranno nella posizione in cui erano un anno o due anni prima. Quindi anche l'Europa, penso anche al voto polacco, sì, di queste ultime ore, che non è un dettaglio da sotto questo profilo, anche l'Europa è chiamata a un fare presto che diciamo così impegna politicamente un po' tutti. La presidenza tedesca del semestre europeo è secondo me una garanzia tutto sommato che si cercherà di fare presto e bene. Sì. Non guardiamo la Germania come a un nostro nemico, non è così. No. Sono d'accordo, soprattutto in questa fase. C'è un'altra, chiamiamola, bombetta politica per il governo, insomma un altro problema sicuramente per il governo da gestire, ed è la questione dei migranti. 1200 sbarchi nelle ultime ore, ma soprattutto una preoccupazione. Ricordiamo che i numeri non sono elevatissimi, nel senso che dal 1 gennaio ad oggi sono circa 8.000 sbarchi, insomma una dimensione tutto sommato contenuta se pensiamo solamente a quello che avveniva solamente 4-5 anni fa, e però il tema è sanitario, cioè quelli che sbarcano e che risultano positivi a Covid-19. È su questo fronte che lo mette la presidente calabrese Iole Santelli. Qui guardi, non si tratta più di una questione di immigrazione. Se scendiamo nella demagogia di parlare di una questione di immigrazione, sbagliamo. Qui si tratta di una questione di salute. Dobbiamo applicare esattamente le stesse norme che applichiamo nel momento in cui blocchiamo i viaggi aerei di alcuni paesi. Detto ciò, sullo sfondo c'è la questione dei decreti sicurezza, perché era un impegno di questo governo. Questo governo è nato anche dicendo: cambiamo i decreti sicurezza di Salvini. Ebbene, sentite cosa dice Buffagni del Movimento 5 Stelle. Cosa dice, cosa ha detto proprio ieri? Credo che il decreto sicurezza abbia messo il paese in condizioni di poter tutelare maggiormente la gestione dei migranti. Tant'è vero che ma lo state cambiando? Lei, no, aspetti, per la verità non è che mi può dire che il Parlamento, vogliamo i DPCM in Parlamento e poi il decreto sicurezza lo cambiamo senza che manco sia iniziata la discussione. Non c'è un testo, non c'è niente. Ok. Quindi non è stato cambiato. Diciamo agli italiani, la situazione è sotto controllo. I migranti non vengono, perché ne vengono meno. Sì. Quelli che vengono sono sotto controllo. Capito, Roberto? E poi ha detto anche Buffagni che tutto sommato Di Maio aveva ragione a dire che le ONG sono taxi del mare, quindi... Beh, voglio dire, onestamente, questa vicenda è, diciamo, la piega legislativa che ha preso durante il governo giallo-verde, l'ha presa per volontà certamente della Lega di Salvini, ma anche del Movimento 5 Stelle al governo con la Lega di Salvini. Quindi devo dire che Buffagni fa un ragionamento di oggettiva onestà intellettuale, sì, nel difendere in qualche modo un provvedimento che non a caso anche il Movimento 5 Stelle ha votato, per cui capisco il ragionamento di Buffagni. Dico che è vero che cambiando dal governo giallo-verde a quello giallo-rosso l'impostazione è diventata diversa, si metta mano in Parlamento a questa storia. Non siamo di fronte a una gigantesca emergenza, perché oggettivamente i numeri non ci dicono questo, questi sono numeri, ammesso che poi le statistiche riescano a registrare tutti gli arrivi, certo, che vediamo. Rimane il fatto su questa storia, per non farla troppo complicata, che sino a quando è, diciamo così, funzionante un controllo delle partenze dalle coste della Libia, le partenze da altri posti sono in numeri governabili. Sì, questa sì è la realtà. Il punto è esattamente quello libico, traffico. Promo 24. L'atrofia muscolare spinale è una malattia genetica rara che comporta la progressiva atrofia dei muscoli volontari e il loro indebolimento. Si manifesta per lo più in età infantile, è la prima causa genetica di mortalità infantile, ma può colpire anche in età più adulta. Si trasmette per via ereditaria quando i genitori, portatori di malattia o di geni mutati, trasmettono entrambi la mutazione. Il riconoscimento dei sintomi, dai tremori e difficoltà nella deglutizione alle evidenti difficoltà motorie, gioca un ruolo fondamentale per l'efficacia della presa in carico. Prima è, meglio è. Rivolgiti al medico o allo specialista o visita il sito care.togetherinsma.it. Altre 100 denunce sono state presentate ieri alla procura di Bergamo per le vittime del coronavirus. Il comitato Noi Denunceremo lo ha fatto lanciando un'altra iniziativa. Ha scritto la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen al Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per chiedere di vigilare sulle indagini, perché potrebbero esserci gli estremi per il reato di crimini contro l'umanità. Consuelo Locati, coordinatrice del Comitato Noi Denunceremo Verità e Giustizia, appunto, per le vittime di Covid-19, avvocata naturalmente. Buongiorno Locati, buongiorno. Benvenuta. Ci dà un'idea di dove sarebbero questi estremi? Dunque, nella lettera è abbastanza evidente, perché noi abbiamo detto che potrebbero esserci le lesioni degli articoli 1, 2 e 3 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, e questo prende spunto in effetti da due delibere in particolare, tra tutto quello che può essere successo, dalla delibera dell'8 marzo sull'RSA e dalla delibera del 23 marzo sui medici di medicina generale. Di fatto, insomma, in questa lettera si chiede una sorveglianza. Quindi gli eventuali autori di crimini contro l'umanità, responsabili di crimini contro l'umanità, sarebbero i vertici della regione Lombardia. Di fatto sì, anche perché queste due delibere di fatto hanno violato quello che è l'incolumità pubblica, no? Quindi violato il diritto costituzionale, l'articolo 32, alla tutela della salute collettiva. Non... Prego, Locati, è che mi sembra, magari sbaglio io, mi sembra un'enormità l'idea dei crimini contro l'umanità, che è una cosa che si applica per esempio nei casi di genocidio, no? E l'idea no, però che... per di fatto, scusi se la interrompo, però di fatto il paragrafo 7, il numero 2 mi pare, stabilisce proprio che si parli di delitti che vengono commessi in modo reiterato da parte di organi politici. Allora, in questa lettera si chiede che anche all'esito, a fronte insomma di questa indagine da un punto di vista penale, si chieda con testo, si verifichi se la parte politica si sia resa responsabile anche di questa reiterazione di comportamenti che possano avere portato poi a una violazione così importante. Si tenga conto che quelle due delibere di fatto hanno contribuito a una strage indicibile, soprattutto qui in Lombardia. Locati, ascolti, non temete che tutte queste denunce che state presentando, come quelle che vengono presentate in altre procure o da associazioni simili alla vostra o da singoli cittadini, possano poi portare in realtà a processi nei confronti di quelli che fino a un attimo fa chiamavamo eroi, ossia i medici, gli infermieri, quelli che hanno lottato in prima linea contro il Covid? No, assolutamente no, e la ringrazio perché mi dà la possibilità anche di specificare questo punto. Allora, come comitato abbiamo sempre dichiarato che i medici e il personale sanitario sono state le prime vittime di tutta questa situazione, per cui come comitato mai è stata depositata una denuncia, un esposto che riguardi l'operato di medici, infermieri e personale sanitario. Per cui quello che è... Però lei che è un avvocato sa, Locati, che quando uno presenta una denuncia sa come inizia l'inchiesta ma non sa come finisce, e visto che non c'è una tutela, stessa Anao Assomed, il principale sindacato dei medici, dice che non c'è una tutela specifica, cioè il rischio è che effettivamente medici e infermieri possano essere indagati e forse anche condannati, il rischio oggettivo c'è. Ma bisognerebbe anche vedere, perché a parte il fatto che comunque i medici e gli infermieri risponderebbero solo per dolo, colpa grave, a prescindere da tutto, e quindi è molto complicato, però bisogna anche capire come viene inquadrata l'indagine, per cui se nel momento in cui i denuncianti nei loro fatti espongono determinate situazioni che non possono essere di certo riportate a responsabilità mediche, ma essere inquadrate nell'ambito più generale di una mala gestio sanitaria, è chiaro che è quasi impossibile che poi la magistratura possa andare a interferire sull'operato di medici o personale infermieristico. Ne è sicurissima? Non sono sicurissima, ovviamente, nell'ambito giudiziario non si è mai sicuri, purtroppo, però sicuramente l'inquadramento che viene dato nelle denunce esposte che sono state depositate è di sicuro un altro, e su questo ho la certezza. Vedremo come andrà a finire. Intanto la ringrazio. Grazie Consuelo Locati, coordinatrice del comitato Noi Denunceremo, Verità e Giustizia per le Vittime di Covid-19. Ieri sono state presentate altre 100 denunce. Io ve lo dico, qualche fronte di preoccupazione per medici e infermieri, per i cosiddetti eroi, quelli che chiamavamo gli eroi, ce l'ho, perché poi... Anche l'emendamento al decreto Cura Italia, quello che era stato presentato da Marcucci del PD, che voleva escludere appunto dalle responsabilità costoro, non è passato. Si è aperto un tavolo per discutere di questo tema. Ma spero in bene per tutti loro che hanno lavorato così intensamente in questo periodo. E con fatica. E hanno anche pagato un prezzo in termini di vite umane. 170 i medici morti, Grazie anche a Roberto Arditi, direttore editoriale di formiche.net, GR24. Ci ritroviamo tra un attimo con la rassegna stampa. A tra poco. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su aruba.it.